Ma André, bambina mia, voi mentite di nuovo. Ricordate, me l'avete detto proprio voi, vi ho telefonato il giorno prima, ricordate che Albertine avrebbe tanto voluto, nascondendomelo come qualcosa che non dovevo sapere, andare al ricevimento di Madame Verdurin dove era attesa Mademoiselle Vinteuil. Sì, ma Albertine non sapeva assolutamente che fosse attesa Mademoiselle Vinteuil. Ma come? Me l'avete detto voi che qualche giorno prima aveva incontrato Madame Verdurin. E poi, André, è inutile ingannarci a vicenda. Un mattino in camera di Albertine ho trovato un biglietto in cui Madame Verdurin insisteva perché andasse al ricevimento e le mostrai il biglietto, che in effetti Françoise aveva fatto in modo che io vedessi, mettendolo, alcuni giorni prima che Albertine se ne andasse, proprio sopra le sue cose e lasciandolo là, temo, per far credere ad Albertine che io avessi frugato fra le sue cose, in ogni caso per farle sapere che io il biglietto l'avevo visto. E mi ero chiesto spesso se quel trucco di Françoise non avesse avuto una parte decisiva nella partenza di Albertine, che aveva visto di non potermi più nascondere niente e s'era sentita scoraggiata, vinta. Le mostrai il biglietto. Non ho alcun rimorso, completamente scusata da quel sentimento tanto familiare. Voi sapete benissimo, André, come Albertine abbia sempre detto che l'amica di Mademoiselle Vinteuil era effettivamente per lei una madre, una sorella. Ma l'avete capito male quel biglietto. La persona che Madame Verdurin voleva far incontrare ad Albertine in casa sua non era affatto l'amica di Mademoiselle Vinteuil, era il fidanzato, sono in piena crisi, e il sentimento familiare era quello che Madame Verdurin provava per quel mascalzone che in effetti era suo nipote. Tuttavia credo che in un secondo tempo Albertine abbia saputo che doveva esserci Mademoiselle Vinteuil. Può darsi che Madame Verdurin gliel'abbia fatto sapere in via accessoria. L'idea di rivedere la sua amica l'aveva certamente allietata, le ricordava un passato piacevole, ma come voi sareste contento se doveste andare in qualche posto di sapere che c'è Elstir? Non di più, e forse nemmeno altrettanto. No, se Albertine non voleva dirvi perché ci tenesse ad andare da Madame Verdurin, era perché a quell'anteprima Madame Verdurin aveva invitato pochissime persone, e fra queste quel suo nipote che avevate incontrato a Balbec, che Madame Bontemps voleva far sposare ad Albertine e a cui Albertine voleva parlare. Una bella canaglia, quello. E poi non c'è bisogno di cercare tante spiegazioni, aggiunse André. Dio sa quanto io amassi Albertine e che buona creatura fosse. Ma soprattutto, da quando aveva avuto la febbre tifoide, l'anno prima che ci conosceste tutte quante, era una vera testa matta. Tutto a un tratto si disgustava di quel che stava facendo. Bisognava cambiare, e all'istante, e neanche lei probabilmente sapeva perché. Vi ricordate il primo anno che siete venuto a Balbec, l'anno in cui ci avete conosciute tutte? Un bel giorno si è fatta mandare un telegramma che la richiamava a Parigi. C'è stato appena il tempo di farle i bagagli. Ora, non aveva la minima ragione per partire. Tutti i pretesti che ha tirato fuori erano falsi. Per lei, in quel momento, Parigi era un mortorio. Eravamo ancora tutti a Balbec. Il golf non era chiuso e neanche le prove per la Gran Coppa, a cui teneva tanto, erano ancora finite. Sicuramente l'avrebbe vinta lei. Bastava aspettare una settimana. Ebbene, è partita a tutta velocità. Gliene ho riparlato spesso dopo. Diceva di non sapere neanche lei perché fosse partita, che era stata la nostalgia, nostalgia per Parigi, pensate un po' se è possibile, che a Balbec si sentiva a disagio, che c'era gente che si burlava di lei. E io mi dicevo che c'era questo di vero in quanto diceva André, che se le differenze fra i modi di pensare spiegano le differenti impressioni prodotte su questa o quella persona da una stessa opera, le differenze di sentimento, l'impossibilità di persuadere chi non vi ama, ci sono anche le differenze fra i caratteri, le particolarità di un carattere che sono anch'esse una causa d'azione. Poi smettevo di pensare a questa spiegazione e mi dicevo com'è difficile nella vita sapere la verità. Avevo notato il desiderio e la dissimulazione di Albertine circa l'andare da Madame Verdurin e non mi ero sbagliato. Ma quando ben si possieda in questo modo un fatto, gli altri di cui non possediamo mai altro che le apparenze, come il rovescio dell'arazzo, il rovescio reale dell'azione, dell'intrigo, non diversamente da quello dell'intelligenza del cuore, ci sfuggono. E non vediamo passare che sagome senza spessore di cui ci diciamo è questo, è quello, è causa di quella o di quell'altro. La rivelazione che Mademoiselle Vinteuil sarebbe stata presente mi era parsa la spiegazione, tanto più che Albertine, prevenendomi, me ne aveva parlato. E più tardi, Non si era forse rifiutata di giurarmi che la presenza di Mademoiselle Vinteuil non le faceva alcun piacere? E a questo punto, a proposito di quel giovanotto, mi ricordai qualcosa che avevo dimenticato. Poco tempo prima, mentre Albertina abitava in casa mia, l'avevo incontrato e, contrariamente al suo atteggiamento di Balbec, era stato gentilissimo, addirittura affettuoso. Ma aveva chiesto il permesso di venire a trovarmi, permesso che gli avevo rifiutato per parecchie ragioni. Ebbene, adesso capivo che, sapendo Albertini in casa mia, aveva semplicemente cercato un buon rapporto con me per avere la possibilità di vederla e di portarmela via. E conclusi che era un miserabile. Ma quando, qualche tempo dopo, vidi rappresentare le sue prime opere, pur continuando a pensare che se aveva tanto insistito per venire a casa mia era stato proprio per Albertine e a giudicare riprovevole il suo comportamento, mi ricordai che se, un tempo, ero andato da Saint-Loup a Doncières, in realtà era stato perché amavo Madame de Guermantes. È vero che il caso era diverso, dato che Saint-Loup non amava Madame de Guermantes. Nel mio affetto c'era forse un po' di doppiezza, ma nessun tradimento. Ma poi riflettei che la tenerezza che si prova per chi detiene il bene che desideriamo, la si prova anche se lo detiene quel bene, essendone egli stesso innamorato. In quel caso, certo, bisogna lottare contro un'amicizia che porta dritto al tradimento, e proprio questo credo d'aver sempre fatto. Ma per chi non ne ha la forza, non si può dire che l'amicizia che affettano per il detentore sia in loro una pura astuzia. La provano sinceramente e per questo la manifestano con un ardore che, una volta consumato il tradimento, fa sì che il marito o l'amante ingannato possa dire con stupefatta indignazione: se aveste sentito che proteste d'affetto mi prodigava quel miserabile, che si derubi un uomo del suo tesoro posso ancora capirlo, ma che si sente il bisogno diabolico di giurargli prima la propria amicizia è un'ignominia, una perversità d'un grado inimmaginabile. Ebbene no, non c'è in questo nessun piacere perverso, e nemmeno una menzogna interamente consapevole. Il genere di affetto manifestato quel giorno dallo pseudo fidanzato di Albertine aveva poi un'altra scusa ancora. Era qualcosa di più complesso d'un semplice derivato dell'amore per Albertine. Solo da poco egli si sapeva, si confessava, voleva essere proclamato un intellettuale. Per la prima volta valori diversi da quelli sportivi o mondani esistevano per lui. Che io fossi stimato da Elstir, da Bergotte, che Albertine gli avesse forse parlato di come giudicavo gli scrittori e di come lei si figurava che a mia volta avrei potuto scrivere, mi aveva fatto improvvisamente diventare per lui, per l'uomo nuovo, che s'accorgeva infine di essere, una persona interessante, di cui gli sarebbe piaciuto essere amico, a cui avrebbe voluto confidare i suoi progetti, chiedere magari d'essere presentato a Bergotte. Era dunque sincero quando mi chiedeva di poter venire a casa mia, quando mi esprimeva una simpatia resa sincera da ragioni intellettuali oltre che da un riflesso di Albertine. Certo, non era per questo che teneva tanto a venire a casa mia, che avrebbe dato qualsiasi cosa per poterci venire. Ma la ragione ultima, che non faceva che elevare a una sorta di appassionato parossismo le prime due, lui stesso forse le ignorava. E le altre due esistevano realmente, così come era realmente esistito in Albertine, quando aveva tanto desiderato andare da Madame Verdurin nel pomeriggio dell'anteprima, il piacere perfettamente onesto che avrebbe provato a rivedere delle amiche d'infanzia, che non erano per lei più viziose di quanto lei fosse per loro, a conversare con loro, a mostrare loro, con la sua presenza in casa Verdurin, che la povera ragazzina d'un tempo veniva adesso invitata in un salotto importante, e anche il piacere che avrebbe provato forse ad ascoltare la musica di Vinteuil. Se tutto ciò era vero, il rossore che era salito al viso di Albertine quando io avevo parlato di Mademoiselle Vinteuil veniva dal fatto che ne avevo parlato a proposito di quel ricevimento di cui lei voleva che non sapessi nulla per via di quel progetto di matrimonio che dovevo ignorare. Che Albertine si fosse rifiutata di giurarmi che non le avrebbe fatto alcun piacere rivedere a quel ricevimento Mademoiselle Vinteuil, aveva allora aumentato il mio tormento, rafforzato i miei sospetti, ma retrospettivamente mi provava che aveva tenuto ad essere sincera. E per una cosa innocente, anzi proprio forse perché era una cosa innocente. Restava tuttavia quello che André m'aveva detto dei suoi rapporti con Albertine, ma forse, anche senza arrivare a credere che André li inventasse di sana pianta per impedirmi di essere felice e di potermi credere superiore a lei, potevo pur sempre supporre che lei avesse un po' esagerato quello che faceva con Albertine e che, a sua volta, Albertine, per restrizione mentale, diminuisse un po' quello che aveva fatto con André, servendosi gesuiticamente di certe stupide definizioni da me formulate in proposito e ritenendo che i suoi rapporti con André non rientrassero in quanto doveva confessarmi e che le fosse possibile negarli senza mentire. Ma perché credere che fosse stata lei a mentire e non piuttosto André? La verità e la vita sono ben ardue. E dell'una e dell'altra mi restava, senza che in fin dei conti le conoscessi, un'impressione in cui a dominare era forse, più ancora della tristezza, la stanchezza. Quanto alla terza volta in cui ricordo di aver avuto coscienza che nei confronti di Albertine mi stavo avvicinando all'indifferenza assoluta e quest'ultima volta fino a sentire di averla ormai raggiunta, fu un giorno, parecchio tempo dopo l'ultima visita di André, a Venezia.